che c'è ancora, la pellicola, quella pellicola che mettono su, sulle cose per non graffiare eccetera, che non l'ho mai tolta, c'è ancora quella pellicola, perché se tolgo quella pellicola è ancora più bello, più chiaro, si vede molto bene. L'antennino ce l'ho su, aspetta un po', ho messo l'antennino, quello magnetico, non è attaccato all'antenna esterna della televisione, ma è attaccato con l'antennino suo, hai visto come si vede bene? Caspita, non sono così piccolo con l'antennino, sicuramente è amplificato. Sì. Vabbè, ma so, dai, ce lo prendo io allora. Ma puoi comprare da Amazon, credo che ci sia lì. Non credo che costi molto, guarda, veramente, no, non c'è. Ad esempio, vai a pescare, tanto per fare l'esempio, tu che hai la passione della pesca, eccetera, no? E nel frattempo che stai pescando, prendi, ti porti il televisionino, se lo già carico, perché è a batteria, no? E poi c'è anche un altro congegno, a tempo, se tu lo vuoi ascoltare per dire per mezz'ora, dopo mezz'ora si spegne, lo vuoi ascoltare per un'ora si spegne, lo vuoi ascoltare per tre ore e dopo tu lo sintonizzi per quel tempo e si spegne dopo tre ore per dire, no? Capito Luca? È meraviglioso, soprattutto per uno che va al mare come fai tu, che va a pescare, eccetera. Sì, allora, il 10 pollici costa 89,99, poi c'è un 22 pollici addirittura, il 22 pollici LED, monitor, Full HD eccetera eccetera, 22 pollici ce ne dà 74,99 perché c'è il 10% di sconto, poi c'è il 14 pollici, c'è un 14 pollici TV portatile, 14 pollici eccetera eccetera, DVD, 139,31, ce ne sono tutti i prezzi in base alle marche sicuramente anche, perché il 22 pollici ne costa 74,99, Full HD eccetera eccetera. Sì, certo, adesso ti faccio la fotografia della scatola, così lo puoi vedere qual è esattamente, perché io ho ancora la scatola. Ti mando la fotografia della scatola, adesso ti mando, così vedi, al computer lo puoi trovare, anche uguale volendo. Meglio. Ho visto che prezzi c'è, tutti anche, allora, 19 pollici, ripeto, io ho la misura qua obbligatoria, da, perché questo mobile è fatto in due parti, la parte di sotto, qui c'è il ripiano e la parte di sopra. Marco, avevo visto quella roba lì? Sì, me l'ho 90 euro, l'ho aperto adesso, mi sto facendo vedere tutti i miei gusti, eccola qua, uguali dentro, contatto viene 80. Hai visto quel video che ti ha mandato Giulio col suo antennino? Quello è col suo antennino, eh? No, non l'ho guardato, ho fatto la fotografia e te la sto mandando della scatola, così è tutto, vedi, tutto il patatrà com'è. Dunque, KCR 14 in che portato le TV, aspetta, adesso te lo faccio, te lo mando. Sì, guarda, ti ha mandato anche il link del negozio dove lo vendono, uguale identico a quello. 80 euro, vedi, c'è anche scritto il prezzo senza bisogno di il link del negozio. Ok, guarda la fotografia della scatola, te l'ho mandata. Sì, me l'hai mandata già due volte la fotografia della scatola. Eccola qui. E da lì poi io l'ho condivisa su Google e mi ha dato il negozio che li vende. Sì, appunto, vedi bene, è un ottimo affare. E vedi tutti i canali, tutti, come il televisore grande, no? Tra l'altro è uno smart, capito? Per cui non c'è problema, non è che sia un semplice televisore, è uno smart. Tutto ci puoi collegarsi anche direttamente col telefonino, come faccio con quello che c'è in camera, è smart TV, tramite il telefonino, perché non c'è niente televisione, e tramite il telefonino mi guardo i film nella televisione. Sì, certamente sì. Sto dicendo, è proprio bellino, veramente bello, solo che io non uso poco e niente, così lo accendo ogni tanto per caricare la batteria, ma niente di più, ce l'ho da Natale, ce l'ho, non è che ce l'ho da molto. Però visto che c'è ancora la pellicola, presumo che non lo usi mai. E c'è ancora la protezione della pellicola sopra il quadro. C'è ancora quella carta trasparente, sai, incollata sulla... Non l'ho mai tolta. Anzi, ho provato a attaccarla per la pelle, da una parte si sono fatte le bollicine, perché dopo la sacchi, poi vai a riattaccarla e non la sacca più bene, no? Però è da studiare, no? Ma non l'ho mai tolta, intanto non lo sto usando, per cui... Vabbè, così evita di prendere la posa, giustamente. E intanto se non lo usi. No, ormai tutti le grandezze l'hanno fatti sui televisori, o giù. Penso che il soffitto dovrebbe avere delle cuffie, quelle cuffie piccole, però non le grandi, le piccole a radietta. Sì, poi la recensione è uguale come televisore grande, perfetta, senza nessuna sbavatura, proprio perfetta, con la solita normale voce amplificata e tutte queste belle cose. Ma un po' che non le prende, tanto io quando pure lo tolgo lo metto dentro la scatola, adesso l'ho tolto. Hai visto quanto è grande la scatola? Questa, guarda, è quasi quanto comodino, questo qui è comodino, vabbè, mi sembra che sia 60, dunque questo è 40, e di larghezza è 40, questo televisore è largo 40 cm, perché il comodino qui è di 60, se che sto guardando sia da una parte che dall'altra che c'è una decina di centimetri, forse 12 anche da una parte e dall'altra, ma dovrebbe essere 60, 65 il comodino, adesso non me lo ricordo. Infatti, a me qua me ne serve uno da massimo 25, adesso vabbè perché c'è questa radio finché non parte, e poi ci metto il monitor, così capito, perché se no mi devo fare il fianco qua, perché l'altro monitor è appeso sulla destra e mi rompe le scatole ogni volta, quindi. Invece me lo metto di fronte, e ce l'ho più comodo, ripeto, oggi perché c'è questa radio qua, ma adesso come faccio anche questa, ce l'ho libero, lo faccio così che mi ci metto dentro il monitor. Guarda, no, ma tu adesso vado a portare giù il fugagnetto, spero che non stia piovendo. C'è anche un'altra cosa, c'è anche il telecomando, questo non manca, c'è anche il telecomando, per cui tu se tu trovi a casa, sei a distanza, usi il telecomando, tranquillo e pacifico e cambia come un televisore normale, non cambia nulla, è un televisore grande, per cui va benissimo. Va bene, dai, se ti devi allontanare, adesso io comincio a ritirare tutto quello che ho tolto dal cassetto, tutto l'ultimo cassetto, qua. Me lo sono riservato per me per queste cose mie, capito? Perché ho messo tutto dentro. Ehi, già ci sentiamo dopo, vado a portare il cagnetto. Sono con la fragola comunque, Giulio, con quella colonnina italica, la porti giù, naturalmente fai il collegamento prima al baracchino, lasci che si connette alla colonnina e poi te la porti giù, e vedrai che non hai bisogno di stare neanche davanti alla radio se vuoi sentire qualcuno. Sì, quello sì, lo so, evidentemente sì. Ma forse mi funziona anche perché ho il telefono smart. Esistono anche quelli già da un po', ma è questione di abitudine, io agli orologi me l'ho fatta l'abitudine, l'ultimo che ho indossato è quello della crisi, rosso quello, poi vabbè con i miei telefonini non ho più avuto bisogno dell'orologio. anzi se lo metto mi dà anche fastidio. C'era uno, non so se era una balla o che cosa, su, che aveva pubblicato appunto con lo smartwatch, cioè aveva fatto tramite un'applicazione, credo che sia, aveva scaricato la sua radio, che era uno Yaesu se non sbaglio, e lui tramite la smartwatch aveva in display della sua radio in funzione, capito? Poi non so se era una palla o che cosa, però dicevano che era vero, che ti potevi impostare la tua radio e lui, non so se tramite Bluetooth probabilmente, quando ti faceva vedere il monitor della tua radio in qualunque posto tu fossi. Vabbè, Giulio, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Luca, ci sentiamo, dai, ciao, ciao.